Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. In un periodo come l'attuale, in cui siamo alle prese in Europa con l'emergenza dei migranti, tendiamo a sottovalutare o a dimenticare che anche noi per decenni siamo stati un popolo di emigranti. L'occasione per rievocare il nostro passato di emigranti e la ricerca di condizioni di vita e di lavoro che non era possibile ottenere in casa nostra ci è offerta da un anniversario, l'anniversario della tragedia di Maxinel in Belgio, di cui ricorrono tra breve i 60 anni. Lo facciamo in compagnia di Tony Ricciardi, storico dell'emigrazione presso l'Università di Ginevra, autore del libro appena pubblicato da Donzelli dal titolo Maxinel 1956, quando la vita valeva meno del carbone. Il professor Ricciardi è in studio con noi questa sera. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Maxinel, sobborgo operaio di Charleroi, in Belgio, 8 agosto del 1956. Sono le 8:10 del mattino. Nella miniera di carbone Bois de Cazier, Pozzo Saint-Charles, sta per consumarsi una delle più gravi tragedie della storia. Nella corsa di risalita alla superficie, la gabbia, cui è stato malamente agganciato un carrello pieno di materiale di scavo, trancia i fili della corrente elettrica e la condotta dell'olio urtando contro le pareti del pozzo. È l'inizio dell'inferno. Le scintille innescano il fuoco che si propaga velocemente alle impalcature di legno delle gallerie, alimentato dai ventilatori che immettono aria nel pozzo. Un macchinista, addetto all'ascensore, si accorge che il cavo non risponde ai comandi. Vede del fumo e dà immediatamente l'allarme. È già troppo tardi. I minatori di turno quella mattina sono bloccati nelle gallerie senza possibilità di scampo. Perdono la vita 262 minatori, 136 dei quali italiani. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Allora, professor Ricciardi, la tragedia di Maxinel rappresenta l'ennesimo tributo di migranti allo sviluppo economico dell'Europa, ma anche il momento più drammatico, se vogliamo, di un'intera epopea migratoria. Sì, Maxinel rappresenta uno spartiacque, uno dei tanti, probabilmente quello più significativo, più importante, perché è stato collettivamente storicizzato. Ed è si chiude un'epoca. Praticamente Maxinel avviene a ridosso di quello che sarà il boom economico per l'Italia, e quindi chiude una pagina che poi nei fatti non si chiuderà mai, dell'emigrazione italiana in Europa nel secondo dopoguerra. Infatti questo aspetto poi del contributo dell'immigrazione al boom economico è una delle questioni che voglio approfondire tra breve, ma intanto analizziamo insieme alcuni dei dati relativi all'immigrazione italiana ed europea di quegli anni. Fin dal 1946 l'Italia aveva gettato le basi organizzative di uno dei più imponenti sistemi di esportazione di manodopera che la recente storia occidentale ricordi. Le piazze e i bar dei paesini, da nord a sud, furono tappezzati di manifesti rosa che incitavano a partire per le miniere del Belgio. Parallelamente ai centri di emigrazione si sviluppò anche la rete dei trafficanti di migranti. Regolari o irregolari, l'importante era che fossero tanti, un esercito chiamato a combattere la battaglia del carbone, scavando nelle viscere della terra quella risorsa necessaria al rilancio economico dell'Europa. Per anni, le cosiddette rimesse degli emigranti hanno costituito parte rilevante della nostra bilancia dei pagamenti. In totale, le rimesse effettuate attraverso canali ufficiali dal 1945 al 60 sono state pari a oltre 2 miliardi di dollari. Ma sfuggono a queste rilevazioni ufficiali le rimesse inviate alle famiglie con i mezzi più disparati e i risparmi che gli emigranti che rimpatriavano portavano con loro. Dunque un apporto fondamentale alla crescita economica del nostro paese, questa degli emigranti. Ma determinante, direi, su questa vicenda, perché poi ovviamente il flusso, le cifre che conosciamo sono quelle ufficiali, ma quanto di non ufficiale transitato, certo, soprattutto dall'emigrazione europea, tant'è che se andassimo un po' al di là, quando fu aperta l'autostrada del sole, alcuni economisti all'epoca scrivevano: beh, state costruendo strade per far partire gli emigranti. Beh, quindi è una questione che non nasce oggi, perché oggi abbiamo il problema opposto, però effettivamente il problema di comunque inserire, integrare gli emigranti c'è sempre stato, di fatto. Ma il problema c'è sempre stato e ci sarà sempre, e anche la vicenda economica. Molte volte oggi ascoltiamo, sentiamo persone che si lamentano, beh, questi sono qui, ma poi non spendono qui, rimandano i soldi a casa. Sì. Beh, nei fatti non è mai così, perché la presenza altra genera comunque economia, nuova economia, ma allo stesso tempo è una storia che, ecco, questa sì che si ripete. Però con grandi differenze, perché l'immigrazione italiana di quegli anni ed europea di quegli anni era un'immigrazione fatta da povera gente nel dopoguerra che cercava un futuro. Ora l'origine delle migrazioni africane è un'altra, sì, certo, c'è la condizione economica, ma lì ci sono anche le guerre. Ma sa, qual è la differenza dei tanti veneti che negli anni 50? Marcinelle è emblematica per tante ragioni. L'Italia ancora deve avviare i lavori dell'Assemblea Costituente e sigla l'accordo il 23 giugno con il Belgio del 46. Il trattato di pace lo siglerà nel 47. Trieste sarà una vicenda che si risolverà nel 54. Quindi, come dire, siamo negli anni in cui i profughi, e soprattutto istriani, italiani, sono la quotidianità. Ci sono molte similitudini. Ecco, ma vorrei parlare proprio di questo accordo del 56, l'8 agosto del 56, quando si sviluppa la tragedia a Marcinelle. L'accordo sul carbone tra Italia e Belgio lo precede di poco, ma cosa determina questa intesa, che è un'intesa commerciale basata però sul traffico di esseri umani, diciamola un po' così brutalmente. Sì, ma l'Italia repubblicana appena nata ha un precedente storico. Il modello dell'accordo del 23 giugno 1946 sì. È il modello dell'accordo siglato nel 37-38 con la Germania nazista. Sì. Io esporto con lo strumento del clearing. Che viene sviluppato in quella fase. Io esporto braccia e tu mi dai carbone. Fatto con la Germania nazista, viene riproposto tale e quale nel 46 dal governo De Gasperi, ma anche qui la storia è ben più lontana, già in epoca coloniale, cioè l'idea di esportare braccia, dell'emigrazione come la conosciamo ancora oggi, viene sviluppata grazie nella fase dell'imperialismo europeo. E quindi c'è questo fil rouge che accomuna tutte le epoche storiche, è lo stesso che poi è oggetto della prima parte per capire qual è l'ideologia che porta all'emigrazione di Stato. Il fascismo stesso è passato alla storia come essere un periodo politico che chiuse la fase migratoria. Nei fatti non fu così. Mussolini cercò fino alla fine di spedirli in mezzo mondo. Stava chiudendo un accordo con l'Unione Sovietica nel 26, solo che i russi gli aprirono solo le porte per la Siberia e non se ne fece nulla. Allora, c'è una caratteristica che accomuna tutte le migrazioni, che è quella dell'integrazione. I minatori italiani in Belgio faticarono non poco a integrarsi. C'erano dei cartelli, mi ricordo di aver letto nei libri, anche il suo libro ovviamente lo cita, in cui si diceva vietato entrare ai cani e agli italiani, come dire, non era proprio un bel biglietto da visita. Nel caso del Belgio venivano chiamati macaroni. E questo è un paradosso che io sottolineo. Perché? Sì. Perché il dispregiativo in questo caso era l'aspetto culinario. Spaghetti Fresser nel mondo tedescofilo qualche anno dopo, e quando ancora l'Italian style culinario non era assurdo al mondo globalizzato. Ma questa è una costante, c'è sempre stata e si è sempre ripetuta, e purtroppo si ripete ancora oggi a parti invertiti. Poi è facile, mi viene naturale la battuta, c'è sempre qualcuno più a sud di te e qualcuno più a nord. E poi la tragedia, perché questa è una tragedia enorme, muoiono 262 minatori, 136 italiani ancora oggi. A Charleroi c'è, come dire, memoria di questa terribile giornata. Questo aspetto nel suo libro è molto evidenziato, questo, come dire, del dramma umano. Sì, ma ecco, Marcinelle è un unicum da questo punto di vista. È la tragedia dell'emigrazione italiana, non fu né la prima né l'ultima, ma la storicizzazione, la conservazione della memoria, il fatto che nel 2009 quel luogo è divenuto patrimonio dell'UNESCO e oggi c'è un museo lì a Charleroi, e furono gli stessi ex minatori a combattere affinché ne volevano fare un centro commerciale, furono loro a combattere affinché si creasse un posto, un luogo, ecco, un luogo della memoria. E questo è molto importante, perché la memoria è fondamentale anche nell'affrontare, lo dicevamo all'inizio del nostro approfondimento oggi, nell'affrontare oggi l'emergenza dei migranti, che è l'emergenza numero uno in Europa. Però forse se si ritorna indietro e si sa e si apprende e si conosce quello che è avvenuto, magari ci aiuta ad affrontare meglio questa emergenza, forse provando a integrarli questi che arrivano. Certo, è una sfida epocale. Ma guardi, io non, anche tutta la vicenda dell'integrazione, io credo che un grosso contributo, più che gli scienziati sociali, lo debbano dare gli economisti. Sono le cifre che giustificano il perché delle cose. 50 anni fa come oggi e come nei prossimi 50 anni. Se raccontassimo per davvero, cifre alla mano, di quante braccia questo paese o l'Europa tutta necessita da qui ai prossimi 20-30 anni per conservare, non dico migliorare, solo semplicemente conservare il welfare state e lo stato sociale per come lo conosciamo oggi, beh, forse qualche barriera e qualche populismo verrebbe meno. E anche qualche filo spinato in meno, qualche muro. Esatto. Bene, grazie allora al professor Ricciardi per essere stato con noi e buona serata a tutti.